Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Laura Panini. Figurine e libri di famiglia. Di Alessandra Scaglioni. Io inizio a lavorare nel 1980, appena diplomata, alla edizione Panini, che era la nostra azienda di famiglia e che produceva figurine. Quella di oggi è la storia di Laura Panini e della famiglia Panini, che ha prodotto e lanciato sui mercati di tutto il mondo gli album e le figurine dei calciatori, quelle che tutti noi conosciamo. È una storia che inizia negli anni 60 a Modena, dove i fratelli Panini hanno un'edicola e lavorano nella distribuzione giornali, sino a che non trovano un lotto di vecchie figurine invendute e hanno un'idea. Questa azienda era nata nel 1961 da un'idea geniale di Giuseppe Panini, che era il fratello più vecchio di mio padre, che da edicolante iniziò questa avventura pensando probabilmente alla sua esperienza di bambino povero che giocava molto spesso per strada insieme ai suoi fratelli e ad altri bambini con questo prodotto che era sempre esistito, perché le figurine non sono state inventate dai Panini, ma hanno una storia lunghissima. Addirittura le prime figurine sono state stampate a metà del 600. Lui ha avuto questa intuizione geniale, come spesso accadeva in quei tempi. Prendiamo questo prodotto che nessuno sviluppa e facciamolo noi, ma da nulla, perché loro erano edicolanti allora. I fratelli Panini sono quattro: Giuseppe, Benito, Franco e Umberto. Non hanno un'esperienza specifica, ma ciascuno di loro porta qualcosa al progetto. Sono andati in giro per quattro sabati di seguito, intanto per capire come si stampava, perché nessuno di loro sapeva come si stampava neanche un pezzo di carta. Poi hanno trovato lo stampatore e si sono fatti stampare una collezione di figurine di calciatori nel 1961, che hanno distribuito in proprio. È andata benissimo e da lì hanno iniziato un lavoro che prima era una sorta di artigianato un po' specializzato, che poi è diventato industria grazie all'apporto di un altro zio, che era un genio della meccanica, che ha inventato tecnologia. Quindi ha inventato queste che si chiamano Fifimatic, che sono macchine che imbustano le figurine e che permettevano una produzione di grossi numeri per, diciamo, fornire allora il mercato nazionale. L'azienda cresce velocemente. I 3 milioni di figurine del primo anno diventano 15 l'anno successivo e 29 l'anno dopo. La terza intuizione geniale è stata di mio padre, quindi il terzo fratello, che ha capito che questo prodotto poteva essere esportato. Quindi ha costruito una rete di piccole società all'estero, era una piccola multinazionale, per la distribuzione di questo prodotto e per fare accordi, appunto, soprattutto per quello che riguardava i diritti e quindi acquisizione soprattutto del calcio. E alla fine degli anni 80, quando noi abbiamo ceduto l'azienda, era una sorta di monopolio mondiale. Adesso c'è qualcun altro, ma la Panini è ancora in una posizione di leadership importantissima, insomma. Nel 1988 la cessione dell'azienda, che aveva raggiunto fatturati nell'ordine dei 100 miliardi di lire. La Panini viene venduta al gruppo Maxwell e il motivo non è economico, ma riguarda il passaggio generazionale. La chiave di passaggio è stata la necessità di tenere unita la famiglia in un momento difficilissimo come il passaggio generazionale. Noi eravamo 16 cugini, quindi tutti avremmo avuto in qualche modo diritto a occupare posizioni di leadership all'interno dell'azienda. Nessuno si era preoccupato di organizzare questo passaggio generazionale in realtà. Quindi saggiamente, io dico adesso a distanza di 20 anni, questi uomini decisero di concludere questa bellissima avventura che era durata 30 anni con una cessione, permettendo appunto alla famiglia di rimanere unita e di dare la possibilità all'azienda di continuare, di progredire, come poi di fatto è accaduto. Dopo una serie di passaggi di proprietà, la Panini dal 1999 torna italiana, grazie a un'operazione realizzata dalla Fineldo S.p.A., finanziaria di Vittorio Merloni, insieme al management della società. Oggi la società è in ottima salute e cammina con le sue gambe, ma le strade delle figurine Panini e della famiglia Panini si sono divise. Devo dire che la cosa straordinaria in questa avventura è che poi questi fratelli non si sono fermati. Ognuno di loro ha reinventato una storia imprenditoriale successiva a quella delle figurine. Quindi hanno continuato a fare impresa sostanzialmente, non si sono fermati e non hanno fatto i pensionati di lusso, insomma. E hanno dato la possibilità a noi figli di continuare questa attività che tutto sommato è andata fino ad ora bene, insomma. Franco Cosimo Panini, padre di Laura, segue la sua passione e crea una casa editrice di libri d'arte assieme alla figlia. Io, mio padre e poi successivamente i miei fratelli, perché noi siamo 5 fratelli, quindi siamo tanti di nuovo. Mio padre era un bibliofilo appassionato, era un grande cultore di editoria raffinata e quindi nel 90 decise di continuare un'attività che aveva per la verità già innestato all'interno dell'azienda di figurine, che era una divisione di libri d'arte. Ci siamo trovati all'inizio del 90 in 5 e abbiamo cominciato a progettare una collana che si chiamava Mirabilia Italia e si chiama tuttora. Era una collana dedicata ai grandi monumenti italiani, anche qui forse un po' le figurine c'entrano perché si tratta di un grande atlante fotografico che spiega e permette un viaggio virtuale all'interno dei grandi monumenti italiani attraverso la fotografia. L'altro volume è un volume di saggi, quindi insomma c'è una completezza assoluta e sono i volumi più esaustivi che siano mai stati fatti riguardo questi grandi monumenti che vanno da Assisi a San Pietro, al Battistero di San Giovanni, eccetera. Poi il gruppo è cresciuto e ha allargato i suoi interessi. Oltre ai libri d'arte, anche il settore cartoleria, dopo aver rilevato la Malipiero di Bologna, e libri per ragazzi. Suoi i marchi Comics, Pimpa e Giulio Coniglio. Questo è stato l'inizio. In realtà la dimensione era troppo piccola, quindi negli anni abbiamo aggiunto altre cose, altre attività che ci appassionavano. E a distanza giusto di 20 anni possiamo dire che questo gruppo è un gruppo editoriale abbastanza interessante. L'anno scorso le due società che fanno parte di questo gruppo hanno sviluppato un fatturato di circa 40 milioni di euro, grazie soprattutto a attività di altro genere. Quindi i libri d'arte continuano ad essere una grande passione, ma un'occasione abbastanza contenuta dal punto di vista dei fatturati piuttosto che del vantaggio economico. E quindi abbiamo sviluppato un business nell'ambito della cartoleria, soprattutto appunto unendo le nostre attività editoriali sviluppando un prodotto importante come il diario, che è un prodotto in Italia molto di nicchia, ma che crea ancora molta appartenenza fra i ragazzi. Diciamo da un giornale settimanale che avevamo, che era Comics, che appunto univa umorismo e strisce di fumetti. Abbiamo creato uno spin-off che è il diario di Comics, che a distanza di 17 anni, perché quest'anno abbiamo fatto la 17esima edizione, è l'agenda più utilizzata dai ragazzi. L'agenda Comics è stata distribuita lo scorso anno in 1.400.000 copie. Poi c'è l'editoria per ragazzi e bambini. Anche qui abbiamo scelto una nicchia specifica, quindi primissime letture, bambini che si affacciano alla lettura, con dei personaggi forti e molto amati da tutte le generazioni, che sono Pimpa, e quindi c'è questa collaborazione magnifica con Altan, che dura, che questa da una quindicina d'anni. Da lì, per esempio, abbiamo costruito una collana che si chiama 03, che inizia il percorso della lettura addirittura appena nati, e quindi anche questa è una sfida che credo che abbiamo raccolto e forse anche vinto, perché sono 3 anni che abbiamo questa collana e che sta diventando un'attività assolutamente fondamentale per chi approccia le prime letture, insomma. Passione per la letteratura e i bambini portata anche ai suoi figli, che sono tre e oggi hanno 13, 21 e 25 anni. Amano la lettura, ma al momento non stanno seguendo la strada della madre e del nonno. Sì, io ho 3 figli, ormai non sono più bambini, ormai sono diventati grandi, tutti e tre, però devo dire che sì, la cosa che ho sempre cercato di fare, anche quando erano piccoli, di creare un piccolo piccolissimo spazietto, non c'è bisogno di tanto tempo, anche un quarto d'ora, 20 minuti in cui si racconta una storia. E allora lì cresce la voglia di continuare questa cosa, perché diventa parte della tua vita quotidiana. E questo è Certo. un po', credo, la cosa che così manca un po' in Italia, cioè questa distanza rispetto alla lettura, che è come se fosse una cosa. Io sento spesso dire: ah, mio figlio, con un certo gol, mio figlio legge moltissimo. Sembra quasi un'attività da marziani, cioè una cosa solo per pochi eletti. No, deve essere un'attività come il gioco, come fare merenda, come i libri devono anche stare per terra, devono essere buttati, calpestati, vissuti, insomma, non deve essere un qualche cosa che rimane stretto in una biblioteca o in una libreria, insomma. Anche se, come sempre, l'equilibrio tra azienda e famiglia è complesso, il bilancio è positivo. Sono stata molto fortunata perché, avendo una famiglia così grande, diciamo, ho avuto anche molto aiuto da parte non solo delle strutture, che a Modena funzionano molto bene, devo dire, ma anche dalla famiglia. Certo, sì, ieri la mia figlia più piccola, che ha 13 anni, ieri sono tornata da Francoforte, oggi sono venuta a Milano e mi ha detto: ma tu vai sempre via, mamma? E dico: domani sera vengo a casa. Quindi ogni tanto, ovviamente, un qualche rimprovero lo ricevo, però insomma fino adesso sono riuscita a gestire in maniera abbastanza equilibrata la famiglia e l'azienda. Franco Panini è morto nel marzo del 2007 a 76 anni. Oggi la Franco Panini Editore è in mano a Laura, che lavora con le sorelle e i fratelli e assieme a un gruppo di collaboratori. Ha due sedi, a Modena e Ozzano dell'Emiglia, un centinaio di dipendenti e 160 collaboratori. Siamo noi insieme a degli ottimi collaboratori, e ovviamente non si può pensare di lavorare in assoluta autonomia, anche perché siamo, insomma, le attività sono tante, quindi non sarebbe possibile seguirle in maniera diretta. Certo, l'editore è un mestiere che si fa molto in prima persona ed è un mestiere che ti coinvolge molto, cioè le scelte vanno maturate anche a seconda della tua passione, del tuo interesse. Non è impossibile gestire la cosa in maniera fredda come in altre aziende accade, solo sulla carta, solo sui numeri. È un mestiere bellissimo, ma è un mestiere pericolosissimo, perché ti innamori di quello che fai e quindi non c'è mai limite al denaro da investire. Quindi bisogna trovare degli equilibri. Quindi, da una parte devi avere la passione e il naso per affrontare i progetti giusti, dall'altra devi avere dei buoni collaboratori che ogni tanto ti dicono: alt, bisogna fermarsi perché questo si va contro un muro o è troppo pericoloso. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.